Euroreportage. Naturalmente pericoloso. L'Europa scopre l'inquinamento verde. Di Laura Bettini. Che aria respiriamo? Come la possiamo migliorare? Ridotte ai minimi termini sono le domande che hanno generato la Green Week 2013, la settimana verde europea che il commissario all'ambiente Potocnik ha deciso di dedicare all'aria. Del resto questo è l'anno in cui la Commissione riesaminerà l'attuale strategia sull'inquinamento atmosferico, cercando nuove soluzioni e nuove strategie per raggiungere l'obiettivo. Anche perché numerose norme europee sulla qualità dell'aria sono ancora disattese nelle zone più densamente popolate dell'Unione. La Commissione promette la linea dura anche per il futuro, perché i danni inflitti alla salute e all'ambiente dall'inquinamento atmosferico sono ormai noti e certificati. Ma il nemico, l'inquinamento, è scaltro, è difficilissimo da sconfiggere e si nasconde perfino là dove non penseremmo mai, perfino nelle campagne. Ma prima di esplorare il terreno dell'inquinamento atmosferico derivante dall'agricoltura ci vuole una premessa. Quando parliamo di sforamento dei limiti previsti di PM10, per esempio, ci riferiamo ai risultati dei rilevamenti effettuati nelle centraline delle città, quei dati che ci presentano la situazione com'è. Ma se vogliamo sapere perché è così, allora bisogna fare riferimento al European Monitoring and Evaluation Program, EMEP, la rete che ha il compito di sorvegliare e valutare il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici. In Italia di questa rete fa parte il CNR con il suo Istituto sull'inquinamento atmosferico. E in Italia, come altrove, i punti di rilevamento non sono interni alle città, ma, come prevede la normativa, sono in aree rurali. E a questo punto possiamo introdurre il primo protagonista, il JRC, il Centro di Ricerca della Commissione Europea, quindi il braccio scientifico, diciamo, della Commissione, che in occasione della Green Week ha presentato uno studio molto dettagliato sulle fonti di inquinamento dell'aria in Europa. Claudio Belis è un ricercatore dell'unità clima del JRC che ha sede a Ispra, Varese. La prima slide, che adesso qua per qualche motivo manca, era sugli ossidi di zolfo, che hanno un'emissione di circa 4,5 gigagrammi, sono milioni di tonnellate, e che vengono prevalentemente del settore energetico. Invece c'era un altro inquinante gassoso importante, che è l'ammonio, che viene più del 90% emesso nell'ambito. In italiano si chiama ammonio? No. L'ammonia? Alla fine della discussione mettiamo in chiaro che in italiano l'ammonio è l'ammoniaca e che, ripete Belis, per più del 90% questa ammoniaca viene emessa in ambito agricolo. Però cosa succede? Che le ossidi di zolfo e l'ammoniaca reagiscono in atmosfera per formare particolato. Si chiama particolato secondario inorganico. Le precisazioni sull'ammonio e l'ammoniaca per noi italiani erano importantissime. Parma, avevamo appreso poche ore prima, è la capitale perlomeno europea dell'inquinamento atmosferico da ammoniaca, dovuto alle coltivazioni agricole e agli allevamenti che la rendono tanto famosa per i suoi prodotti gastronomici. È un problema serio e doppio. L'ammoniaca da sola è già un danno per gli ecosistemi. In più, combinandosi con gli ossidi di zolfo provenienti dal settore energetico, si trasforma in particolato secondario inorganico. La stessa cosa succede con gli ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto è un inquinante chiave, perché innanzitutto perché le emissioni sono molto elevate, diciamo, è il doppio degli ossidi di zolfo, per darci un'idea. Secondo, perché sono precursori sia del particolato, attraverso questa reazione, diciamo, ammonia con nitrati produce nitrato d'ammonio, che è solido e che diventa particolato. In aggiunta, il biossido di azoto partecipa alle reazioni fotochimiche che determinano la formazione di ozono. Il risultato finale dello studio del JRC sulle fonti inquinanti è questo. Quello che noi abbiamo trovato come media, il particolato secondario inorganico di cui parlavamo prima, rappresenta un terzo in media in Europa. Quindi è una parte rilevante del particolato, mentre il contributo dal traffico, diciamo, sia la parte che esce dal tubo di scappamento, quindi il gas, ma anche la risospensione, diciamo, quello che viene chiamato road dust, quindi è la polvere che viene risollevata, rappresenta un 20%, quindi queste due sono le sorgenti più importanti. Poi abbiamo il materiale che viene risollevato dal vento, che è un materiale inerte relativamente, quindi fatto prevalentemente da, diciamo, sabbia, se vogliamo dire, o silicati di alluminio, che rappresenta un 17%. Poi abbiamo le sorgenti tipo le industrie, ma anche in questo caso noi abbiamo visto che si somigliano, abbiamo messo anche le emissioni delle navi, perché diciamo il tipo di impianto produce emissioni simili, quindi noi le vediamo aggregate, quindi un 15%. Segue il biomass burn, quindi la combustione di biomassa e di legna. Mark Sutton, professore del Centro per l'Ecologia e l'Idrologia dell'equivalente del CNR britannico, mostra alcune foto che chiariscono bene gli effetti sugli ecosistemi dell'ammoniaca e poi spiega. L'ammoniaca nell'atmosfera viene principalmente dall'agricoltura, dall'urina degli animali d'allevamento. Volendo distinguere, l'80% ha origine dagli allevamenti, il 20% dai fertilizzanti, in particolare l'urea. Contribuisce al PM in atmosfera minacciando la salute umana e contribuisce sensibilmente alla perdita della biodiversità in Europa. È un problema serissimo. Che cosa possono fare gli agricoltori e allevatori? Ci sono tecnologie a bassa emissione già disponibili, che sono già obbligatorie in Olanda e Danimarca, e sono usate da un decennio. Ma in molti paesi non c'è alcun obbligo. Invece si potrebbero utilizzare altri concimi, o almeno tecniche di precisione per lo spargimento dell'urea. Ci sono tante possibilità. Ovviamente una differenza la potrà fare la futura nuova direttiva europea per la qualità dell'aria. Ci sono delle possibili soluzioni anche per l'allevamento, dice ancora Sutton, che comprendono anche qualcosa che potremmo fare noi, come ridurre i consumi di carne che sono davvero eccessivi. Non raccoglie quest'ultimo punto ovviamente Diane Mitchell, consulente ambientale dell'Unione degli Allevatori Britannici, ma concorda sull'esistenza di possibilità e di spazi di miglioramento. Molte azioni sono già state intraprese dagli allevatori per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e di metano. In Gran Bretagna, ad esempio, dal 1990 le emissioni di ammoniaca si sono ridotte del 20% e dati simili arrivano dalla Germania, ma molto si può ancora fare, soprattutto nel trattamento del letame. La sfida, secondo me, sta nel trovare il modo di conciliare la produzione di cibo di qualità proteggendo l'ambiente. La quantità di iniziative che registriamo in Europa dimostra che gli allevatori sono pronti a mettersi in gioco e a prendersi le proprie responsabilità, ma abbiamo bisogno di sostegno per ricerca e sviluppo, promozione di nuove tecnologie e informazione. Dagli animali all'agricoltura. L'associazione dei produttori di fertilizzanti europei, si chiama Fertiliseur Europe, rappresentata da Christian Pallier, ha recentemente lanciato la campagna DAN, dal nome del fertilizzante, che ora raccomanda agli agricoltori europei per la sua composizione più sostenibile. Testato dall'UNEP, il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite, DAN è l'acronimo di Direct Available Nitrogen, azoto immediatamente disponibile. E così spiega Mark Crianz. La ricerca dice che si riduce la dispersione di ammoniaca nell'aria. Le emissioni da fonti organiche sono circa dell'80%, quelle dei migliori fertilizzanti con urea il 18%, quelle di DAN solo il 2%. Se tutti si danno da fare, cosa intende a sua volta fare l'Europa? La risposta del commissario all'ambiente Patochnik. Le emissioni da ammoniaca sono nella nostra agenda. Sappiamo che sono un problema. Sappiamo che affrontando questo tema potremmo affrontare contemporaneamente una questione climatica e una ambientale. È difficile dire di più, però. Non posso prendere impegni prima che siano valutate le conseguenze di eventuali misure e senza un confronto interno alla Commissione. La nuova politica agricola europea può dare parte della risposta. Dobbiamo capire quale può essere una risposta complessiva. In complex way looks like. La risposta complessiva certamente potrà stare nella direttiva sulla qualità dell'aria, che in questi mesi è allo studio della Commissione e su cui evidentemente Janez Patočnik non è ancora affatto pronto a scoprirsi. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.